Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buon fine settimana a tutti. Ormai la settimana non è terminata, ma questa è la nostra ultima puntata della settimana. Poi ci risentiremo naturalmente regolarmente lunedì. Come concludiamo oggi in bellezza? Perché facciamo un bel tuffo nel passato. Beh, se sia bello non lo so, ma sicuramente sarà interessante. Allora, perché facciamo questo tuffo nel passato? Perché ci riguardiamo un po' indietro. Perché domani Plus 24 del Sole 24 Ore pubblica un numero speciale dedicato ad un anniversario. 2000-2010, 10 anni dalla bolla Internet. Un anniversario che si celebra in un contesto indubbiamente interessante, definiamolo così. E perché? Perché contrariamente a quello che accade ora, fase in cui ci troviamo ad osservare una situazione sui mercati molto incerta, nella quale ben pochi risparmiatori sanno collocare il proprio risparmio, i propri investimenti in maniera decisa, perché proprio lo scenario è abbastanza turbolento, ancora molto volatile. E allora molti risparmiatori tengono il proprio denaro ancora estremamente liquido, puntando per esempio su titoli di Stato a brevissimo termine, a costo di portare a casa un rendimento praticamente pari a zero. 10 anni fa invece c'era un clima completamente diverso, erano tutti quanti certi di azzeccare il proprio investimento. Il problema principale di chi si alzava la mattina e aveva un po' di denaro da investire era: come faccio oggi ad accaparrarmi il lotto minimo della prossima IPO, della prossima società che va in borsa? Era il momento d'oro della tecnologia, da cui però molti hanno ricevuto anche delle delusioni pesantissime, per non parlare di vere e proprie scottature. E allora stamattina rifaremo un po' questo salto nel passato, come vi dicevo. Intanto con il collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Vitaliano D'Angerio, ciao, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. E poi sentiremo anche che cosa facevano 10 anni fa Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra Sim. Tognoli, bentornato anche a lei a Salva Danaio, buongiorno. Grazie, buongiorno. E bentornato a Davide Pasquali, presidente di Farus SICAV. Pasquali, buongiorno. Grazie, buongiorno. Entrambi peraltro interpellati anche per questo speciale in edicola domani con il Sole 24 Ore. Vitaliano, quante pagine e quante storie avete recuperato, riesumato, insomma, tra l'altro storie anche tristi di società che erano, come dire, agli onori della cronaca costantemente. Non facevamo altro che parlare 10 anni fa di Freedomland, di Finmatica, di Ebiscom, e oggi di tutte queste ce ne sono rimaste ben poche, forse nessuna. Sì, qualcuna è rimasta. Comunque, a proposito delle pagine, c'è questo numero che sembra un po' ritornare, che è il numero 10, 10 pagine, 10 anni, 2010, e anche 10 storie. Ma sì, c'è ancora qualcuna di queste aziende in borsa, la Fastweb che si chiamava Ebiscom, ma anche Tiscali. E difatti 10 anni fa che cosa è accaduto poi? È una data, il 10 marzo appunto. E il Nasdaq raggiunse per chi i un massimi. Po' crede alla cabala, certo che oggi si diverte parecchio. Infatti, il 10 marzo il Nasdaq raggiunse il picco, un picco che poi da allora all'11 marzo del 2003, dopo 2 anni, aveva perso circa 75%, questa discesa durata quasi 2 anni. E noi, ecco, la verità è la chiave, anche un po' di lettura di questo numero, non è soltanto una rivocazione storica, che poi alla fine qualcuno mi insegna che i mercati finanziari non hanno memoria in generale, ma è proprio un tentare di capire dagli errori passati se c'è un insegnamento e insomma anche una riflessione su quella che è la situazione dei mercati oggi. È quello che abbiamo cercato di fare in questo numero, oltre che ovviamente andando anche a prendere delle curiosità, delle frasi famose, delle varie Bitcoin piuttosto che Harry Blodgett, eccetera. Quindi c'erano praticamente analisti e professionisti del risparmio e degli investimenti che in qualche maniera non credevano assolutamente a tutta quell'euforia che si stava generando sul mercato, altri invece che imperterriti continuavano a pubblicare i cosiddetti buy, cioè giudizi comprare sui titoli, sì, della tecnologia. E poi anche lì, insomma, molti sono stati, anche da quel momento in poi questi professionisti sono stati duramente messi sotto accusa, sì, in America, adesso gli sta ritoccando di nuovo peraltro, quindi anche lì ciclo e riciclo, corsi, sì, e ricorsi storici, insomma, non sono proprio una sciocchezza, altro anche se devo dire che per quanto riguarda c'è una maggiore vigilanza rispetto al, sì, passato, non solo in America ma anche in Italia. E comunque un po' di insegnamenti, insomma, sono arrivati a 10 anni di distanza. insomma, io credo che anche i risparmiatori adesso abbiano un po' la pelle più dura rispetto al passato. Vorrei tra l'altro che ce lo raccontassero all'800 24 00 24, o ce lo scrivessero al 349 238 6666, perché ci capita ancora oggi, probabilmente capita anche ai colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore, di ricevere lettere e mail di ascoltatori che hanno magari portafoglio titoli incagliato da queste vecchie società che non hanno più futuro, non si sa che fine abbiano fatto, magari la loro storia è scritta solamente su qualche istruttoria in tribunale, probabilmente solo qualche giudice conosce la sorte e i destini di queste aziende, e di fatto magari sono così impegnati, obbligati a mantenere dei rapporti con la banca solo perché hanno questi portafogli, appunto, non zeppi, magari ce n'è solo uno, di titoli di società fallite. E insomma, parlavamo prima di scottature pesanti che molti hanno preso. Se avete voglia di riesumare anche questi fantasmi che un po' probabilmente vi infastidiranno, allora raccontatecelo questa mattina e vedremo un po', non tanto come aiutarvi a gestire queste situazioni, ma magari possiamo anche noi aiutare a dare qualche lezione a qualcuno per non commettere più certi errori. Sicuramente l'euforia di comprarsi a tutti i costi un titolo tecnologico che poi si voleva rivendere assolutamente il giorno dopo averlo acquistato, infatti c'era la corsa all'acquisto, a collocamento. Io ricordo che adesso, per fare l'esempio di Ebiscom fu collocata a 160 euro, il giorno dopo chiuse a 222 euro, insomma veramente dei prezzi allucinanti. Non è che adesso poi ci sia minor, come dire, corsa allo sportello, basti vedere quello che sta succedendo con il bond Enel in questi giorni, storia completamente diversa, certo. Un'obbligazione societaria, però certo. Insomma, magari anche questa è una cosa che ci fa un po' riflettere. Sintomatico del fatto che insomma forse si cerca una maggior sicurezza forse in questo momento. Allora, tra l'altro, prima di cominciare a sentire Tognoli e Pasquali, volevo dare un'occhiata anche alla borsa questa mattina, perché anche qua è una giornata interessante. Ho anticipato un po' la tendenza di questa giornata nel giornale radio. La Banca Centrale Americana ha cominciato la sua stretta monetaria aumentando il tasso di sconto allo 0,75%. Non abbiamo ancora la reazione di Wall Street, perché la decisione è stata presa ieri sera a mercati chiusi, ma c'è la reazione dell'Europa, che era piuttosto cupa stamattina in avvio. Tutti gli indici perdevano oltre un punto, poi ci hanno ripensato e adesso stanno ritornando su. C'è ancora il segno meno su tutti gli indici, ma molto inferiore appunto rispetto all'apertura. Londra meno 0,28, Francoforte meno 0,31, Parigi meno 0,47, Milano un po' più pesante delle altre piazze, perde lo 0,90%. Oggi ci sono a Parigi i conti di Lafarge e i cementieri sono sotto pressione perché evidentemente non sono piaciuti molto agli investitori. Buzzi e Italcementi perdono 2,5 punti. Continua ancora a scendere Fondiaria, che proprio il mercato è rimasto deluso dai conti di qualche giorno fa. Mediolanum e Mediobanca hanno sciolto la loro partecipazione, il loro incrocio azionario, e i titoli sono in calo di 1,5 punti. Finmeccanica meno 1,45, Unicredit meno 1,36. Si salva Unipol da questa giornata negativa un po' per tutti, ma il titolo aveva sofferto parecchio negli ultimi giorni. Oggi recupera. Ansaldo più 1,22, Autogrill in rialzo di 1 punto, Fiat più 0,98%. La decisione della Federal Reserve ha fatto però scivolare abbastanza significativamente l'euro sul dollaro. Stamattina è arrivato a 1,34,50, forse 40 anche, adesso recupera a 1,34,91. Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra Sim, dov'era 10 anni fa? Cosa faceva? Facevo sempre l'analista in un'altra casa di brokeraggio, quindi mi sono sempre occupato di analisi, anche 10 anni fa mi occupavo di questo. Che cosa si ricorda di quel periodo dell'euforia che contagiava un po' tutti, dall'investitore della prima ora a quello più professionale, naturalmente tutti a caccia della tecnologia che poteva far guadagnare nel giro di poche ore cifre incredibili? Lei era uno degli scettici, adesso che col senno di poi non ci dica che lei era uno di quelli bravi che aveva già previsto tutto, naturalmente. No, assolutamente no, per prevedere tutto ci sarebbe voluto Nostradamus, non un analista finanziario. No, sicuramente lo scetticismo derivava dal fatto che i presupposti sui quali si basavano i target price e piuttosto che i modelli di valutazione, e d'altra parte mi rendo conto che sono cose molto specifiche, sì, per chi non sa di finanza. Per esempio il target price era il prezzo obiettivo di una società quotata. Esatto, e i modelli di valutazione prendevano le mosse da analisi che per esempio prevedevano che entro 10 anni, quindi insomma oggi, tutta la moneta contante, insomma quello che ci teniamo in tasca, sarebbe completamente sparito, avremmo fatto transazioni unicamente tramite moneta elettronica, il che uno poteva dire sì, ci credo o non ci credo, secondo me era un po' troppo forte. Questo era uno dei motivi per i quali insomma ci credevo un po' poco. D'altra parte però mi rendevo conto che c'era quest'uforia in giro, e allora andavo a legare un po' il rendimento al rischio, cioè dicevo attenzione, perché magari vi può andare bene, no? Se però l'approccio dell'investimento azionario è come la scommessa ai cavalli, allora ti può anche andare male. In altre parole, il rischio di avere quel rendimento è veramente molto elevato, il che ti si può ritorcere contro immediatamente. Anche perché poi credo, Tognoli, poi magari questo aspetto lo approfondiamo nella seconda parte di Salvadanaio, perché devo andare già in pausa. È molto difficile nel vostro ambiente, credo, andare in controcorrente. Lei è successo anche qualche anno fa con un'altra vicenda, poi magari se vuole la raccontiamo con Italis, e però credo che sia anche difficile prendere certe posizioni nettamente contrarie alla tendenza generale, perché si rischia anche un po' di essere, non so, messi da parte nell'ambiente. Che cosa può succedere in 30 secondi? Ma in realtà nulla, non può succedere, solo che poi insomma quando vai dai clienti... No, ma magari anche la banca che ti fa fare l'analista, in sostanza. Ma insomma, magari la banca reagisce in malo modo, perché non è sicuramente il mio caso, nel senso che la nostra banca era assolutamente indipendente, quindi... tant'è vero che è uscito il report, no? Da quale facevi riferimento, ma però voglio dire, tante, visto che di fronte a un sell, quando tutti erano in buy, commissione non le facevi, no? Quindi insomma gli utili ne facevi meno, e quindi eri messo un po' alla gogna, se però vogliamo, poi insomma, no? Quando le cose andavano come voi avete previsto, sicuramente la soddisfazione valeva molto di più di tutti i profitti persi. Allora andiamo in pausa. 800 24 00 24, ricordo il numero verde per i nostri interventi. Adesso Pasquali, vengo anche da lei, ci sono delle considerazioni al 349-238-6666, bellissime, ve le leggo tra un po', ma ce n'è una che adesso devo leggerla assolutamente. Anche voi facevate i fenomeni, ci dice un ascoltatore, parlavate di Tiscali che aveva più capitale di Fiat, è vero, capitalizzava più del lingotto Tiscali, ma io non ero a questo microfono, quindi mi tiro fuori, però probabilmente qualche giornalista pure ha avuto qualche tentazione forse di cavalcare quell'onda in quel momento. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, stamattina abbiamo anticipato il contenuto di un numero speciale che esce domani con il Sole 24 Ore, un numero speciale di Plus 24 dal titolo 2000-2010 anni della bolla internet. È interessante ripercorrere questo decennio, che tra l'altro si sta concludendo in maniera pessima data la crisi attuale, come sapete, anche se l'umore della borsa è migliorato da un anno a questa parte, ma viaggiamo ancora a vista, come ci indicano spesso gli esperti che interpelliamo. Stiamo ripercorrendo questi 10 anni, soprattutto muovendoci un po' sull'onda dei ricordi storici, finanziari, per noi che li abbiamo vissuti. Io in realtà ho iniziato Vitaliano, non so tu, Vitaliano D'Angelo, del Sole 24 Ore, ho iniziato al Sole nel 2001, sì, con la TV del Sole 24 Ore, e raccontavamo un altro posto, ma comunque sì, mi scrivevo già di queste cose qua. Sì. Davide Pasquali, presidente di Farusicav, buongiorno, è uno dei nostri due... come dire, testimoni anche di questo decennio, non per età, perché è giovanissimo Pasquali, esattamente come Tognoli, però già da un decennio lavora. Lei 10 anni fa dov'era, cosa faceva e cosa ci può raccontare di quel periodo? Beh, nel 2000 gestivo un hedge fund, quindi lo ricordo come un bel periodo, perché sicuramente, vabbè, nel delirio della speculazione c'erano un sacco di occasioni sicuramente da sfruttare. Quindi è stato, dal punto di vista operativo, un gran bel periodo. Poi se vogliamo valutare invece quello che è successo dopo quel periodo, vabbè, allora lì bisognerebbe riaprire un capitolo. Riaprire un capitolo e fare 18 puntate una dietro l'altra. Però Pasquali, stavamo considerando con Vitaliano D'Angerio a microfoni spenti, sicuramente è una fase di euforia che ha provocato anche molti errori da parte di molti, i piccoli risparmiatori, perché non avendo informazioni adeguate hanno fatto molti investimenti sbagliati. Qualche volta allora è andata pure bene, per la verità, perché magari puntando, riuscendo ad accaparrarsi un lotto di una società tecnologica che nel giro di una giornata, come la Finmatica, citata da molti ascoltatori, faceva più 700%, è chiaro che a molti è andata bene. Però molti altri invece si sono scottati, perché magari hanno mantenuto questi investimenti un po' più a lungo, molte società sono fallite. Ma una lezione positiva da quella fase la possiamo trarre o no? Per esempio, alla finanza, tutto quello, che cosa è servito? Ma Pasquali. In teoria si dovrebbe trarre qualcosa di positivo da questo, però diciamo che se poi va a valutare i clienti nel tempo e negli anni ritornano sempre sui loro errori. La cosa che noto è che nel DNA dell'italiano c'è la speculazione, questo è storico. È impossibile parlare di un investimento a medio o lungo periodo, ma tutti sono focalizzati sul fatto che cercano un risultato di breve, quindi il guadagno. Sì, che poi è incredibile, è paradossale, perché non facciamo altro che definire i risparmiatori italiani come gli affezionatissimi al mattone, come i vecchi bot people che adesso stanno ritornando anche sui titoli di Stato per proteggere il loro risparmio. Lei invece vede anche una forte connotazione speculativa nell'atteggiamento dei risparmiatori italiani? Quando entrano nel settore azionario, comunque il comparto azionario, sono i più speculatori secondo me d'Europa, hanno proprio questa mentalità, si usa ancora a dire giocare in borsa, no? Che è vero, è totalmente improprio perché non è un gioco, però di fatto è così, e poi si sono viste le conseguenze, perché da speculatori poi chiaramente diventano cassettisti perché non sanno tagliare le perdite e dopo si creano questi portafogli disastrosi che si trascinano per decenni. Allora, cominciamo a sentire anche qualche ascoltatore all'800240024, poi do lettura anche dei diversi messaggi che stanno arrivando. Cominciamo con Fabrizio da Lecco, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio di darmi la possibilità di parlare. Grazie a lei. Io mi ricordo, era l'autunno del 99 e il mio consulente bancario mi aveva sottoposto il prospetto informativo di Ebiscom. Sì. Che essendo io un promotore finanziario l'avevo attentamente letto, ma ci scommetto che la maggior parte dei sottoscrittori di IPO trascurano di fare, e mi aveva fatto impressione il dato che la capitalizzazione nel caso della forchetta massima di prezzo, che era 160 euro, che poi era stata quella di collocamento, era pari a 6.000 miliardi, e tra l'altro non c'era un fatturato alle spalle, perché Ebiscom, che adesso è Fastweb, sì, erano era una tutte società start-up, nata per fare il cablaggio, ma non aveva chiaramente fatturato. La cosa era spaventosamente fuori luogo, nel senso che chiaramente poi io non le ho sottoscritte, anche se qualche giorno dopo avrei raddoppiato i soldi. Si è mangiato anche un po' i gomiti in un attimo, Fabrizio? Ci sono stati dei momenti che si è mangiato anche un po' il gomito perché l'investimento poi alla fine non l'ha fatto? No, sinceramente no, perché lo ritenevo comunque una quotazione che non stava assurda, né in cielo e né in terra. E quello che voglio dire è che tutte queste società collocate come IPO, guardiamo la Saras, che non è del 1999 o del 2000, ma è del 2006, non è una società internet, eppure è stata collocata con delle modalità IPO che non davano la possibilità, sì, se ne è anche molto, di vedere quanto gonfiato era il prezzo delle IPO. Le IPO devono essere collocate solo ad investitori istituzionali, non al mercato retail. Questa è una regola che se non si applicherà continuerà ad allontanare gli investitori italiani dalla borsa. Fabrizio, la ringrazio molto per la sua lucida ed appassionata analisi sul tema di questa mattina. L'IPO, d'altronde, l'italiano, un IPO viene fatta per rastrellare denaro sul mercato, per chiaramente far partire bene un'azienda, ma magari insomma le aziende già sono assolutamente valide e solide, l'IPO serve per raccogliere ulteriore denaro, per portare avanti la politica degli investimenti, però non per questo viene sempre fatta a prezzi gonfiati. Oggettivamente la proposta dell'ascoltatore è una provocazione, però che secondo me fa riflettere, perché alla fine quando ci si avvicina alla borsa bisogna avere un minimo di consapevolezza finanziaria. È chiaro che i prospetti informativi da 1000 pagine scoraggiano. Ci sono poi giornalisti che si rileggono come facciamo noi e ne scrivono su Plus o su altri giornali, e già questo può essere un aiuto, perché tentiamo nei limiti del possibile di volgarizzare un po' quello che è la finanza, no? Questi termini molto tecnici. Dopodiché è chiaro, bisogna comunque dedicare un po' di tempo alla lettura, a informarsi, a un'educazione finanziaria che purtroppo scarseggia nel del nostro paese. Se non si ha voglia, se non si ha tempo, se ci si annoia a fare queste cose, allora ci si affida a dei fondi oppure a un consulente che si spera in modo indipendente ti consigli cosa, come investire, cosa e come investire. Mm-hmm. Tognoli, torno da lei, vicepresidente di IntegraSim, cosa ne pensa della considerazione che faceva il nostro ascoltatore D'Alecco? Tra l'altro questo è un momento in cui di IPO, quindi nuove quotazioni in borsa, è un momento in cui si scarseggia molto da questo punto di vista. Questo, per la verità, per quello che riguarda le aziende italiane, soprattutto le piccole, è un fenomeno che va avanti da tempo. Non c'è molta voglia di tornare a quotarsi, il momento non è favorevole, ma c'è anche da dire che per certe aziende del nostro paese c'è poca voglia anche per altri motivi. L'IPO, il quotarsi in borsa, significa comunicare con voi, con la comunità finanziaria, essere molto trasparenti in tutta la gestione. Insomma, possiamo fare anche due riflessioni su questo? Certo, no, direi io sostanzialmente non sono d'accordo, nel senso che secondo me più che tagliare la testa al toro e dire beh, allora, visto che comunque nel momento in cui poi il mercato scende, io che ho comprato da privato ci perdo, beh, in realtà occorre veramente informarsi. Sono allora d'accordo sul fatto di fare un'informazione finanziaria molto forte. Qui ovviamente occorrerà e occorre che sia gli analisti finanziari sia i giornalisti, insomma, come voi, collaborino molto di più. Non solo, ma occorre che, e qui però il discorso si allarga, che l'economia barra finanza, esattamente come ha più volte ricordato anche Banca Italia, sia in qualche modo insegnata già dalle scuole, dalle scuole medie, perché oggettivamente, ma non solo comprando azioni, ma anche i bot, quando poi ti dicono guarda l'IRR è il 2%, uno deve sapere che cosa sta comprando, ma è la stessa cosa. Quindi insomma occorre veramente che ci sia un consenso generale. Poi è chiaro che basandomi e quindi essendo in un sistema capitalistico, con le banche, con la borsa eccetera, la borsa deve essere quello che diciamo l'istituto che raccoglie il risparmio. Per fare questo però occorre che vi siano dei risparmiatori che ci investono, per questo non è... Però no, quello che volevo dire, Tognoli, sicuramente qua torniamo ad agitare delle acque già note, a parlare di temi già conosciuti, e cioè del fatto che dobbiamo tutti migliorare la nostra educazione finanziaria. Però in quel momento mi ricordo che il famoso indice dei titoli tecnologici, il NUMTEL, che nacque alla fine degli anni 90, la sua prima composizione fu di una quarantina di titoli, se non sbaglio. E allora, ma perché nessuno diceva che probabilmente, cioè tutte le società che rappresentavano quell'indice nel giro di pochi anni sono fallite? Possibile che nessuno, perché qua dobbiamo sempre dare responsabilità a un risparmiatore che fa un investimento in maniera sprovveduta? Possibile che nessuno si era accorto del fatto che c'era tutta fuffa sotto i bilanci di quelle aziende? In realtà, insomma, tanti se ne erano accorti, nel senso che c'erano diversi, sia da parte dei giornalisti, sia da parte degli analisti finanziari, persone che dicevano attenzione, perché è vero che Tiscali la sua capitalizzazione supera la Fiat, ma che cosa c'è sotto? In Fiat ci sono degli impianti, in Tiscali no, ma così come tante altre società. Poi certo che, ripeto, andare controcorrente, lo dicevamo ma anche, prima. Esatto, ma anche da quello che investi, dice vabbè, ma tu comunque compri oggi a 160 e vendi domani 220, che cosa mi stai dicendo? C'è perché qualcosa che scendere? Non funziona. Capisci? E allora diventava prociclico. In realtà uno deve avere ben in mente il concetto di rischio e rendimento. Non c'è nessun rendimento, e questo bisogna averlo bene in testa, nessun rendimento che offra tanto in più rispetto alla struttura media dei tassi che non abbia un rischio al suo interno elevatissimo. Questo bisogna veramente averlo in testa, altrimenti si corrono poi rischi. Allora, altissimi. Sì. Allora fatemi leggere qualche messaggio, perché ci sono gli ascoltatori che giustamente si arrabbiano, li sto preannunciando da tempo e poi non li leggo. C'è qualcuno che mi dà anche della prezzolata, chissà che cosa significa questo insulto. Allora, per esempio, alcuni ascoltatori citano alcune società. Freedomland, che fine ha fatto, Vitaliano? Freedomland non è più sul listino, è fallita, c'è tutta una serie di... c'è anche un procedimento in corso, tra altre cose in questo procedimento, adesso leggo un attimo... È stata condannata anche la Consob per quanto riguarda il prospetto, questo è del 2007. Erano 1700 investitori che insomma hanno fatto causa, mettendoci dentro tutti: Banca Leonardo, che all'epoca non era di Bragiotti, che aveva portato in borsa Freedomland, De Giovanni. Questa era una società che voleva portare la TV in internet, sì, il contrario. Sì, ecco, sì. Tra l'altro, in questo momento farebbe veramente un grande successo, perché sicuramente il modello attuale, però in quel momento, pur essendo un'idea eccezionale, non ebbe quotata, però alla fine insomma sappiamo come è andata a finire. Mm-hmm. E poi pure Finmatica. Oggi allora esatto. Presidente Crudele, che adesso da quanto si sa ha una piattaforma di trading sul web e fa un altro mestiere in sostanza. Mm-hmm. Poi c'era Bipop, no? la banca online. Sì, devo dire che molti personaggi si sono anche eccezionalmente riciclati in qualche maniera nel mondo finanziario, e so che qualche volta questo genera anche un po' di malumore per chi poi legge le vicende di queste persone, che sanno sempre comunque rimanere assolutamente in pista. In Tiscali però, per esempio, è ancora sul listino, sì, così come dicevamo prima è Biscom, che adesso si chiama Fastweb e appartiene alla Swisscom, no? Mm-hmm. Agli svizzeri di Swisscom. E che dire, cioè io volevo sottolineare, anche poi sentire il parere degli ascoltatori ma anche dei nostri interlocutori, anche il ruolo degli analisti, perché va bene, molti ascoltatori da quello che tu leggi se la prendono con noi giornalisti, sì, però anche gli analisti hanno avuto un loro ruolo in tutta questa vicenda, in questi potenziali conflitti di interessi con la banca insomma per cui lavoravano, tanto che all'epoca furono, dopo questi scandali, dopo la bolla, furono erette le mura cinesi, no? Le muraglie cinesi fra analisi e fra chi faceva invece proprio il banker. Queste mura cinesi poi, non so, hanno funzionato, non hanno funzionato. Qualcuno è diventato analista indipendente per finalmente poter dire quello che pensava realmente nei per poter report. Dire liberamente il sell, quindi vendete, questa non è più una società da tenere in portafoglio. Ho perso 8.800 euro con Finmatica, per recuperare mi sono punito con 2 anni di servizio catering extra lavoro, fatevi almeno voi una bella risata, c'era racconta un ascoltatore. Ci mancherebbe altro che ridiamo di questo. Poi tra l'altro per molti investitori possono sembrare anche piccole cifre, a molti piccoli risparmiatori invece magari generano dei danni inimmaginabili, e però insomma se abbiamo il timore che questi investimenti non facciano per noi, stiamo alla larga. Vorrei anche fare, visto che quella era una bolla speculativa, magari un paragone con la situazione odierna per capire se ne abbiamo altre in vista. Abbiamo attraversato quelle immobiliare i cui effetti li stiamo ancora pagando, chissà se quest'anno arriva quella delle obbligazioni di Stato, perché qua i governi ne metteranno a centinaia di miliardi, ma su questo andiamo tra poco. Volevo farvi ascoltare l'esperienza di Luigi da Milano, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Luigi, ex broker. Sì, buongiorno a tutti. Io porto la mia testimonianza, sono un ex broker di una società di intermediazioni finanziarie di Milano, quale non posso fare il nome perché è ancora certo. aperta. Nel 2006 questa società praticamente mi ha lasciato a casa con una motivazione: basso scambio commerciale. Quindi cosa vuol dire? Che praticamente portavo poco budget alla società per gli scambi, il quale chiaramente aveva una percentuale, indipendentemente che il cliente guadagnasse o perdesse. Su che cosa la spingeva l'azienda, Luigi? Che cosa voleva che assolutamente vendesse ai clienti seguiti in qualche maniera? Su che cosa la società spingeva affinché lei intermediasse? Ma il portafoglio era molto diversificato. I titoli potevano variare dall'immobiliare alla metalmeccanica, alle telecomunicazioni. Loro l'interesse era far investire più capitale, dando una specie di illusione di rientro di interessi elevati, cioè raccolta di capitale il più possibile con un rendimento eccessivo. Chiaramente, giustamente ha detto il dottore poc'anzi, che più è alto il rendimento, si presume il rendimento più alto, più è alto il rischio di perdere sia il rendimento che il capitale. Questo non le è successo, Luigi, nell'epoca appunto dello scoppio della bolla speculativa, ma nel 2006, quindi un altro frangente economico. Qual è la lezione appunto che dobbiamo, secondo lei, ascoltandola, trarre da questa sua vicenda? Ma è un vecchio motto, meglio una gallina oggi che un uovo domani. Cioè, prendere poco, ma quel poco essere sicuro di prenderlo senza aspettarsi guadagni mirabolanti poco tempo. Giustamente, come ha detto il dottore prima, gli interessi che si possono avere sono quelli quali può dare qualsiasi Stato con i propri titoli. Oltre si va a rischiare sia la perdita del capitale e sia la perdita dell'interesse. I miei clienti, del mio portafoglio clienti, mi hanno ringraziato perché almeno il capitale era salvaguardato. Hanno perso gli interessi, ma non il capitale, e che non è poco. No, proteggerlo non è poco, però nel lungo periodo magari questo dovrebbe generare un po' di più, dato che l'inflazione comunque adesso è bassa ma continua a correre, quindi quantomeno, oltre a preservare il capitale, bisognerebbe preservarlo anche tenendo conto di quello. Davide Pasquali, l'ho lasciata sul versante finale perché magari, se vuole, mi aiuterà anche a trarre delle conclusioni da tutto questo, però mi interessava molto il tema della bolla, no? Perché dopo quella speculativa abbiamo attraversato quella immobiliare, ne abbiamo altre, secondo lei, così ad aspettarci dietro la porta? Ma più che bolla, le materie prime, non lo so. No, secondo me materie prime direi proprio di no, perché probabilmente questo è un segnale della situazione economica che stiamo ancora vivendo, di estrema incertezza, e quindi si prediligono certi investimenti, quindi le materie prime, perché ha un senso in un momento in cui c'è molta incertezza. Più che di bolla parlerei di problematiche di bilanci statali, quello senz'altro è un grosso problema. Lo si è visto ultimamente con la Grecia, con la Spagna, col Portogallo, mettiamoci anche l'Italia. Sì, io conosco abbastanza bene la sua posizione sull'Italia, che è molto simile a quella del premio Nobel Mandel di qualche giorno fa, apparsa sui giornali, che dice che più della Grecia in Europa dobbiamo preoccuparci dell'Italia, dobbiamo ritornare su questo, dobbiamo ancora spaventare i nostri ascoltatori, Pasquali. No, non li vorrei spaventare, perché diciamo che quando si gestiscono patrimoni bisogna essere realisti ed evitare i rischi. Allora, mi sembra di poter dire che dopo tutto quello che è successo nel 2008, un rischio sui bilanci statali c'è, o comunque il rischio è aumentato. E questo lo sappiamo. E questo mi sembra che ormai sia chiaro a tutti. Evidentemente bisogna trarre delle conclusioni, quindi dire: se io voglio investire in asset obbligazionari, quindi cercarmi un rendimento, magari fino all'altro ieri il rendimento statale era certo e sicuro, probabilmente da oggi non sarà più così, o comunque devo aumentare una previsione di rischio su quel tipo di investimento. Ciò non vuol dire abbandonarlo totalmente. Lancio una provocazione: se proprio devo fare un investimento in obbligazioni statali, a questo punto mi verrebbe voglia di suggerire comprate la Grecia. Mi sta provocando un po' di turbativa, in sostanza, tra gli ascoltatori. Grecia in che senso? A brevissimo termine, magari, però non impegnarci a lungo con questo Stato, almeno fino a quando le condizioni finanziarie non si siano chiarite. C'è un test importante su questo paese a marzo, da lì anche Bruxelles deciderà cosa fare, se aiutare più concretamente o meno, o no? Ma sa, ci sono due linee di pensiero. Le deve dare in 3 secondi perché sto chiudendo. C'è chi dice che l'Europa non è più smontabile, c'è chi dice che l'Europa farà la fine dello SME. Lascio la scelta agli investitori. A questo punto, se io sono deciso e convinto che l'Europa continuerà ad esistere per i prossimi 2000 anni, non ha senso comprare un bond italiano al 2%, ma compriamo un bond greco al 5%. Va bene, con la provocazione di Davide Pasquali lasciamo oggi Salva Danaio. Devo darvi solo un'ultima informazione di servizio prima di salutarvi, che oggi sono in edicola, e in edicola in allegato al Sole 24 Ore, naturalmente una cosa in più da acquistare a parte, costa 7,90 euro, il cofanetto di Telefisco 2010, uno strumento che consente di avere a disposizione tutti gli approfondimenti della giornata di Telefisco dello scorso 27 gennaio, questa giornata dedicata a tutte le novità fiscali, appunto organizzata annualmente dal Sole 24 Ore. Grazie ad Antonio Tognoli, Davide Pasquali, Vitaliano, anche a te. Ciao Deborah, a presto. Arrivederci a tutti. E noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana.